Europa 24. E buongiorno anche da Anna Migliorati. La plenaria del Parlamento europeo ha espresso il suo consenso all'accordo raggiunto la settimana scorsa sul bilancio pluriennale dell'Unione europea 2014-2020. Una larga maggioranza, 474 sì, 193 no, 42 astenuti, ha approvato la risoluzione bipartisan. Per il via libera definitivo si dovrà aspettare settembre per l'approvazione legale e definitiva. Intanto la Commissione europea, come sentivate anche in GR24, sceglie la via della flessibilità, dice in aula il presidente Barroso. L'Europa, le parole di Barroso le sentite, consentirà deviazioni temporanee dal raggiungimento dell'obiettivo di medio termine che consentiranno investimenti pubblici produttivi cofinanziati dall'Unione Europea. Il deficit non potrà comunque superare il 3%, ha poi precisato il portavoce del commissario Olli Rehn. E allora i commenti, meglio tardi che mai, dice Cristiana Muscardini, europarlamentare e vicepresidente della Commissione Commercio Internazionale, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Dico che non è mai troppo tardi, che se Barroso avesse insieme al Consiglio esaminato prima e con più attenzione certe questioni, avrebbe capito da tempo che continuare a insistere in politiche di ristrettezze non è il sistema, bisogna tagliare gli sperperi, ma bisogna lanciare l'economia, per cui assicurare all'Italia di poter scegliere in che campo, in che modi spendere, perché altrimenti non ci sarà mai una ripartenza della nostra economia. Per cui bene ha fatto Barroso, male ha fatto a dirlo in ritardo, poteva dirlo prima, e grazie al governo italiano che comunque ha saputo presentare un progetto che ha rassicurato i nostri diffidenti partner europei. A preoccupare intanto i conti del Portogallo, la Commissione ha espresso preoccupazione per quella che ha definito una credibilità finanziaria appena ricostituita. Con il mese di luglio la Presidenza dell'Unione Europea passa alla Lituania. Tra gli obiettivi nei prossimi mesi, quello dell'integrazione energetica, un tema che coinvolge direttamente anche l'Italia, dove l'energia è sempre più cara, quasi il 35% in più dei principali paesi concorrenti, dicono Federmanager Roma e AIEA, Associazione Italiana Economisti dell'Energia. Nicola Tosto, presidente di Federmanager. Sono 25 anni che non si fa un piano energetico, non si fa una politica unitaria energetica. Le grandi questioni che diventano questioni poi di principio ideologiche, cito una fra tutte, a differenza di alcuni paesi europei come c'è la Spagna o altre, sui rigassificatori. Una maggiore integrazione europea potrebbe essere quella una via percorribile? Assolutamente. Purtroppo questa Europa sembra che è sempre meno coesa su vari aspetti, i vari paesi invece di diventare effettivi membri di una stessa comunità mi pare che stiano privilegiando più gli aspetti concorrenziali intraeuropei. La cerimonia oggi, l'assegnazione del premio 3 anni fa, l'Unione Europea saluta il dissidente cubano Farinas. A 3 anni dall'attribuzione, oggi Guillermo Farinas, psicologo, giornalista, ma noto nel mondo soprattutto come dissidente cubano, potrà finalmente ritirare a Strasburgo il premio Sakharov assegnatogli dal Parlamento europeo. Nel 2010 non gli fu concesso di lasciare il paese. Proprio quell'anno aveva portato, fin quasi alle estreme conseguenze, il più lungo dei suoi scioperi della fame, quello seguito alla morte in carcere del dissidente Orlando Zapata, lo sciopero che ha minato il suo fisico più di tutti gli altri. La trombosi che mi produjo la huelga de hambre dell'anno 2010. Dopo lo sciopero della fame del 2010, quando metto le scarpe, i piedi mi si gonfiano. Mi è stato sconsigliato dai medici di calzarle, ha raccontato di recente in questa intervista a una televisione di Miami. La parte più lejana al corazón casi no llega. Ho anche perso la sensibilità ai piedi, non li sento. Bueno, sí, si Dios quiere, voy a recibir el premio Sakharov. Se Dio vuole, ritirerò il Sakharov in nome della disubbidienza e della disubbidienza del popolo cubano e lo farò in ciabatte. Voy a ir en chancletas. Yo tengo que seguir las indicaciones. En chancletas, come un francescano cubano. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono Federico Taddia e oggi vi presento la nuova campagna I tuoi diritti di passeggero in mano, promossa dalla Commissione Europea. imbarco negato, voli cancellati, ritardi, bagagli smarriti, bisogno di assistenza, ecco tutti i diritti dei passeggeri, indipendentemente dal mezzo di trasporto usato. Nave, aereo, treno o autobus, la Commissione ha predisposto una comunicazione capillare sul dove e come trovare supporto e risposte efficaci alle necessità legate alla mobilità all'interno dell'Unione Europea. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito ec.europa.eu, da dove è possibile anche scaricare l'applicazione I tuoi diritti di passeggero per smartphone e dispositivi mobili. E l'Europa vi aspetta domani alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.